sei un gufo. Ehi, mi sto facendo l'allenamento a aspirare. Copiato, Luca. Gufo. Ehi, sto facendo allenamento con quelle palline. Vabbè, la sentiamo dopo, poi vado a fare la spesa allora. E vai, non c'è andare a spendere, non è a mangiare. No, solo acqua c'è, solo da bere. Quanto posso campare solo bevendo? Allora, dimmelo e muore, molto di nessuno. Di sé, di sì, si fa leva se a posto. B e bu, già non muori con leva. No, ma ci vuole nutrimento, capito? Dai, ci sentiamo dopo, grazie. E intanto adesso ne devo fare ancora 10 minuti, poi faccio l'aerosol, un quarto d'ora, e poi sono a posto, bar un dollaro. Via, a dopo, ciao. Via. Adesso ho sollevato 2 e 1 un po'. È vero. Anzi, la terza quasi, più di metà. Ehi, funzionenni. È vero. E allora? Funziona, funziona. E adesso 2. Respira, respira forte. E allora? Facilo cercare a fare l'online. Piano piano. Avanzo la state tutte e 3. Ma con chi stai parlando? Non lo so chi era. Tutti e 3 si sono sollevate, Gian Mario. Questo tirata che ho fatto. Ho capito. Che adesso questa aspirata che ho fatto sono salite tutte e 3 le palline. Oddio, stai migliorando. Prova sempre, prova. Altri 10 minuti, un quarto d'ora al giorno. Quanto devi fare quella roba? Tutto il giorno? E allora, un quarto d'ora di... Un quarto d'ora ogni giorno. Allora va bene così, dai. Allora va bene. Più lo fai meglio è. Devo riuscire a salire tutti e 3 le palline e a trattenerle il più possibile sopra, aspirando, no? Sì, ho capito già. Io ho visto che 3 salivano, 2 salivano, l'altra no. Invece adesso sale anche l'altra, terza. Ma no, ogni addio, ogni addanto. Adesso per esempio non ce l'ho fatta. Perché direvi, Barzana, aspettare un po', come te lo senti, provi. Quando parli molto spesso, provi e non sali. Invece, quando ti calmi un poco, dopo sale. Vedi, adesso non ce l'ho fatta, solo 2. Piano piano mi avvalo, deve essere concentrato e a colpo sicuro. Se no, manco se ti ammazzi, si muovi, la terza. Ma così è. Va a pasaneggi un poco e torna a provare. A che pare così, mica sforzimi. Quando lo sale vuol dire che non è normale, capito? Invece quando ti riposi un pochettino, dopo che non rifai, allora può darsi gli salga, capito? Quando sei più rilassato, no, che sei pronto, provi, no? Adesso si provava, no alza, so qui a un affanno. E forse hai visto? Perché stai sempre parlando, ecco perché cosa. Invece se stai 5 minuti fermo o 10 minuti lo fai e sale. Ma faccio un burrocino e mi dà fastidio, noi così la cosa. Tu che ci sei in mezzo dovresti sapere com'è e come non è. Anche se lo corrispondi con l'ossigeno, con il tubo, con le occhiali. E poi devo fare il suo allenamento. Dunque, l'ossigeno che io riesco a espirare è quello che sto aspirando dal bombone praticamente. E per aiutarti i bimboni, no? Se no si sarrano. Ehi, è così. Mamma cuna, cazzo! Graziano. Ehi, ciao attore, mi sto facendo un po' di allenamento del respiro con quello strumento, con le palline. E allora della simpatia, da 10 minuti ho qui, poi già entro, se no lo pino, compri 5 minuti di questo devo fare e poi 10 minuti di aerosol. Tanto me ne devo mettere una fialetta, due fialette, sia veloce. Sì, fai, dai, ci sentiamo dopo. C'era Luca, ma è andata a fare la spesa intanto, nel frattempo che io mi sto facendo questo. Quando viene già entra anche lui. E via. C'era anche Giovanni. Non me lo avrà inteso. E boh. Beh, grazie. Un altro po' ho finito e poi faccio la rosa. Mica c'è Tore, non l'ha sentito. No, mi sono allontanato. Tore. Sì, a Gio Marie. Buonasera. Beh, cosa me racconti? Cosa vuoi che ti racconti? Un po' che dei barzellette di voi. Niente di nuovo allora. Sempre le stesse cose, no? Cosa vuoi fare? Sanda così. È importante tirare avanti bene, vai. Sì, no, pazienza. Pazienza, TV, pazienza. Tutto qui padre Graziano, Graziano, è indaffratto questa sera. Poco fa anche tutte e tre palline ha sollevato, ragazzi. Ti puoi immaginare. Uiuia. Che andemmo per andemmo. Era cucenni mesi da al coso, nel portatile a cucenni. Non ho capito. Stavo ascoltando nel portatile. Una portante? No, ho detto che stavo ascoltando con il portatile fino a 2 minuti fa. Ah, e dove? Su qua, questa frequenza o l'altra? Sì, da frequenza. Ah, anche al portante arriverò bene, dai. Se no, se rimane a Lugoso. Sì, a Lugrivia, certo. Quell'altro non riuscite ci a mettere le come si chiama? Lo squash? No, lo squash c'era. L'ho messo tutto a posto adesso. Eppure non dovrebbe essere facile, no? No, è che soltanto che lo devi mettere, lo devi togliere, lo devi rimettere e si mette a posto da solo. È provato a rigettarlo? Non ce n'è bisogno di rigettarlo, si è messo a posto lui da solo. Ah, da solo? Vabbè, di questo non sapevo, hanno le regolazioni quando lo metti in... non lo so, non l'ho mai toccato lo squelch io. No, è a 3 lo squelch. Dovrebbe essere a uno dovrebbe andare tu. Guarda, è a 3, funziona benissimo. Vabbè, allora se a 3, se funziona bene, va bene così, allora lascialo così. Sì, a voglia. Con quello sì. Sì. E allora. E messa la vedi quella frequenza? Nel portatile me l'ho messa. L'ho capito tu. Ho detto che l'ho messa nel portatile. Ah, e quello lì no? No, è quello. No, non ci ho provato, ecco cos'è. Ci ho provato ieri, ma è mezzo incasinato. Quindi l'ho messa sul portatile e li sento lo stesso. Vabbè. Io sul portatile non l'ho provato a dire la verità sul portatile. Non lo so come si faccia pure, bisogna leggere il manuale. Ah, io ci ho provato e l'ho messa. Ci proverò anch'io a vedere, là. Ci proverò anch'io. Tanto già arrivi. Aggiungi che arrivini. Se no, l'allungo il godo. Ah beh, quello sì. Andava, se non andava si accontani a rasura. Ci andava per un'ansia. Ah, non mi arrabbia giù più, no. Conviene tonno. Tanto se mi arrabbia giù, vado a buio, tocca. Quindi, la giù buccio e rimane così. Va bene, ma c'è. Se no, se ti ho preso anche se così, uia. Andave. Vabbè, ma bisogna sempre inciampugliare, ma almeno conosci dopo e poi maneggiarlo bene, capito? Pensava, faccio maneggiato fino a troppo, ma se posso appoggiare la giura. Ha detto, casta mia, da poi è andato, se vuole appoggiare la giura, se posso. Va bene, va bene. Bene, così allora. Tranquillo e pacifico allora. Se no, rimani così. Aria sol! Cosa vai, grazie, cosa c'è? Mi sto preparando l'aria sol. Prepara, prepara. Fai, fai. Si parte! E ti vuoi andare, grazie? Si parte! Dormite siete, però beh, mi tagliere, fine, a giubilità va, chiedi, ti va a giubilato che capra lo lai. Allora si apporta va. E dopo alle 8 mi devo fare gli altri spruzzi e gli altri bacigli. Insomma, da fare non ti ne manca mai, da. Prima di cenare devo farmi uno spruzzo del discus, una polverina bianca che sta spida con una macchinetta e un'altra pastiglietta che si mette dentro un contenitore, premi a spigi. E passaggera, poi l'insulina. Poi la notte, l'insulina, la notte la pastiglia, quella del colesterolo. E fine. E quanto ne fai l'insulina, la notte? Dipende, con un cortisone che c'ho con Biglielli, vi la giuascia sempre. 2,50, 2,80, 3,20, il cortisone. E in base a quello mi faccio l'insulina. Perché c'è il cortisone, paesi che sta a me. No, io sto andando bene questa volta, 24, 28, 26, 34 qualche volta. Certo. La mia sta andando bene adesso. Ma io vado a ubriacare appunto un cortisone per i polmoni. Se no mi si torna a chiudere, capite? Mi si torna a portare i pilari. E dunque adesso è così, come il busto va nuda, sa pure di una bacia e scappi all'altra, però di là, al limite con l'insulina, la regoli, però poi secondo a te, mi porto l'insulina di basità, sinà, poi me la devo ricontrollare, se almeno abbassa di un centinaio di unità, che cosa le dammi la mano, capito? Funziona così. Qualche volta le pilare me ne dà da mangiare. Guarda, la una le manzano, a me la villa, dici cosa gli porta, e ora mi arrivi, arriva a monte di biscotti. Boh. Oh, boh. Me di roba stai prendendo, Me la devo prendere, se no mi si chiudono i polmoni e se dovrai ci dai, mi attaccano e dovrai il flebo. No. Meglio mi piglio la roba in casa. E aspetta un attimo. Ehi, Ettore, è uscito a prendere la moglie. Forse è andato a prendere la moglie. Luca è andato a fare il peso, mi pare che mangia nel supermercato. A si bene, ma comparà. Luca, ci sei. Persa, ci sei. Ehi, mormito, sì. A bise sono bisese. Spaghetti alla marinara. Bello bene. Granchioni. Bonaletti. Pacchigia ci sei. Hola Cicu. Chi è? Chi è? Il più bello di Sassari. Ciao amore. E adesso sei arrivata. Poco fa sono arrivato, ero dal medico, ero dal veterinario. La puntura ti ha fatto la supposta. No, voleva mettere io la supposta. E scommetto non voleva. Attenta, cuffetta. Ciao Caruccia, la giudicatrice da mani di loro spini. Cosa stai facendo, c'è cuffetta? Beh, la verità si dica a giovinetto, siccome non ti vale, va me la reso dopo che ho soffiato, che su buffalori. Ho finito adesso. Siccome non ti fa, me l'ha dipigliato tutto, ma le banana banca. Adesso sono in pausa. Ti saluto. Chi era che aveva parlato poco fa? Luca, non lo senti? Luca, mica c'è Bacchigio, anche Gianni Maria c'è. E peso, Bacchigio! Ciao, Gianni Marina! Ciao, Luca! Ciao, buonasera! Buonasera anche a Gianni Maria se mi ascolta. Ma non mi ascolta perché sono con l'antennino. È copiato, lui. Ha voglia, Bacchigio lo ascolta forte e chiasso. Benissimo, ciao Bacchigio. Ciao, lo sento. Buonasera Bacchigio, buonasera Luca. Un attimino che sto parlando in verticale, arrivo subito. Riprendi Bacchigio. Sì, ciao, sono di salute ancora. Siamo qua. Avanti, signor Graziano. Finito hai di fare tutta la papaldella. Ehi, infatti saluta alla faccia della barbatella mi mangio, gli spaghetti alla marinara, tanto va, così impara, Graziano. Si impara Graziano, quanto mi sono preso questi 15 lì? Sì, e non lo dia a Favrano, per carità, ha bisogno di soccorso dei zecchini. Che ci riunia schifo di mangiare. Ma figurati, mi hanno fatto portare da casa l'umagna cotto, il purè, queste cose così, da cose leggere. Per carità, l'un riso, pensavo che un riso da io che mangio battarega, a chi gli dà non vera nuda, né sale, nuda, l'un riso buddito, ma con un cane ne magna. E a chi quando il vostro va al minestrone, ti via zia, devi fare il canottiere, faccio fare un fagiolo. Ma dici una sera, signor Grazia, tortellini al brodo, buoni, se lei è, vedo che li mangio, e me li dia. 17 tortellini e una cazzarella di brodo, bianco, va buddita. Li devi piccare con una canna da pesca, crudi di la valla. E Grazia, tu sei il lupo delicato, vedi? Io si sono fatti il bagallato perché erano scivoni. E allora, mi fatti gli abbracci la gatti. Ma dici tu, quando è giusta, non la mangia, sai cosa devo mangiare? Mi sa bucare. Si la tocca a Lugani, mi musicheggia a Lugani. Lasci perdere che sono diventato biondo solo a vederli. Ma non me l'hai fatta la vergogna. E così, grazie, la vita dell'ospedale è brutta. È brutta, brutta. Adesso qualcosa, mi ha trovato un mese ieri, dunque li ho visto come arrivano, fredda, e le cose che ti abbassa asciutta che ma con un cucciuccio di magna, tutto. Di buono vera solo leva, e buh, avanti Luca. Luca! Adesso bevendo un crudino. Cusinetta, lo crudo di rovini. Se lo dire, è crudino. E allora, crudo, io mangio roba cruda. Oh, e l'abbè mi ha detto, è tornato a passare e mi rimane nella cosa mia. Mi pare di forse un po' gonfio. Ma le vedi, parmigiano. Oh, e io, no, e allora, non so che rimango senza mangiare a voi. Vai, vai. Hai capito? No. Sai così? Ah, ti portavi il parmigiano all'ospedale? No, e allora? Tutto mi fate a riga. Pure un de paracolazioni, in un termoso da un litro. Come dare la vudenni, parole a te, l'umeo. Chi ci diede era Eva del rubinetto color gialla, a Manoa. E la rugginosa? Nel limone di lui, da Madonna, dice, ma limone e zucchero ce n'è questa. E penso di sì, cazzo di parieva di lavandino, di sabuzzinosa, di abbaroa, ma cosa? Te la pazzi in umani. Io. E così è. E cosa eravate nella camera? In due, grazie. E allora, anche il bagno in camera c'avevo. No, due giorni ero con una ragazza, no? E poi l'hanno portata su a operare. E poi ero un uomo, una rotti. La ripetamento aliata, dice, tu mi azzicchiro, ma come hanno mangiato la giudizio? Ascolti, se me lo lascia qua mi cambi di camera, se no me ne so candente. Allora, sono giusto se l'hai buttato comunque una camera in fondo a tutta la giura, a che si creava tutta la luce. E mi hanno arrivato il subizzino dell'incidente, che è successo a cane, che ero comunque su, 4, 5 lì. E si chiama il bagno all'interno, il bagno dei tuoi reti e lo va. E fa che era così. E quando si chiede, ma che si è in fondo, si intende Roma Pessimi. Io li intendia Roma Pessimi quando si chiedevano. Massimo la notte, il silenzio, si intende. Oh, manco dormi poi. Lo so, ma io qui non me ne potevo neanche alzare dal letto, c'avevo i freddi, i affigosi tutti attaccati, e poi c'avevo il tubo dell'ossigeno che arrivava al bagno a chi l'ha giù due lungo così, a chi se no doveva rimanere cucato e dice ti portiamo la padella, gli mettiamo il cazzo e tre, un gatto e tre giubboni giù, grazie a Dio cammina ancora, già da piedi a rasura in bagno, non ti preoccupare. Una di me ha fatto lo scandalo a chi ha chiuso il radio la Ianna, e invece non ne dovevo chiudere. E la gente, va bene, non ci ho fatto caso, già lo so comunque. E infatti, no, io ho attaccato e camminavano con un coso, con l'asta, la impegnia, tutto tipo di pulizia e girava. Ehi, ha ripreso Gian Mari? No, sta parlando in verticale, grazie. Ah, in verticale sta parlando. Luca, ha ripreso. E beh, grazie, allora, come va? Migliorando stai? Ah, grazie, migliorando stai, sì. Già lo credo, con tutti i timbreati che mi si sono cucudenni. Sono da risetti, manco un quarto in terra. Mi ho messo a fare il tè, mi ho fatto il caffè, mi ha giovato prima chicchio, l'insulina, eccetera, eccetera. Poi mi ho preso il tè con le fette biscottate, tutta la ciandaina di bastigli, poi gli spruzzi, spiriva, sempre veni. Aerosol, dopo più tardi, sempre... Ah, la batteria si è caricata. È rimasta a bocca becca. Ah, secco è rimasto. Aspetta, riprendi che mi hanno telefonato. Ehi, attendo il telefono, poi già siamo in Italia. Avanti, Gian Maria. Mi sa che si è allentato un po' garito. Ho segnato lo squallido. Buonasera, Sciotto, come la va? Sì, buonasera Luca. Gliela va bene, sì. Così bene. Oh! Sai che gli stavo ascoltando sul portatile. Mi stavi ascoltando? No, gli stavo in quella frequenza là, gli stavo ascoltando sul portatile stasera. A me, non stavi ascoltando sul portatile? No. Sta nelle cose con la frequenza là, a me. Ah, in quella frequenza io sono solo in quella frequenza là. Arrivano a sparare stasera. Via, ti grido. Oh, sono riuscito a ponermi la posto, mi si può portare a giura. Lì sai. Noi ci vogliamo posto questo. Bisogna andare via. E quello da base. C'è una frequenza inserita da quando l'ha giù comparato e non sono riuscito mai a cavannira. In memoria bisogna entrare con quello. Con quello bisogna entrare in memoria, anche io ce l'ho così, con una frequenza che l'ho messo. Una frequenza l'ho messo e poi non so come riuscire dobbia cavannina. No, questa c'era nato così, me l'hanno dato così e non sono riuscito a toglierla. Ci metti la frequenza sopra, è arrivata a un certo punto se la cancella. Sì, perché in memoria è. C'è la memoria dentro, bisogna entrare nel coso della memoria, che normalmente come ti si chiama. Bisogna che aspetti Bacchì e quando viene mia figlia che sa l'inglese, non posso dire da Edam, non posso dire. E guarda dove è la memoria. Sì, a me, tu speak English, yes, thank you very much. Sì, tra i maccioni. Te lo dico io, aiuto. Cosa che non stiamo a parlare? Guarda che so tutto, c'ho anche il dizionario, mi porta, vedi. Ma chi? A me mi pare che Graziano, ma che succede se si è mandato anche tu paesi? Cosa? A me mi pare che Gesù Gesù ti sta mandando anche tu paesi. E che è? Furgoncino! Sì, furgoncino no, ma l'altro così. Ehi, riprendi Gianni Mari! Sei impegnato, eh. E il cappellano, Graziano, come non sanno, passava a farti la visita. Poi mi sono combustionato, un pari all'esorcista è fuggito. No, me ne sono giunti due femmine di chi si venne a piagare l'affari due. Non sono infermiere, sono quelle dame di compagnia che vengono a farti compagnia. A ciaramidare, a dire, guardate, oggi sono di poche parole, c'ho anche l'elica girata. Allora ci scusi, la giubbatti d'aglia. Non sono cosa, sono delle volontarie, sono le infermiere volontarie quelle lì, che andano andate a imbucarsi, hai aggiornato a vestiti e fare. E tu non hai mai trattato, se tu li tratti bene, si imboccano anche. E dopo ti domanda le carri lì, dai vai, ti fate il primo arrangiamento quando si accolta bene. Perché sono loro fighissimi, hai compreso? Diglielo tutt'ore! Prima devi fare tutto e poi da Gaban. Se ne fa pensato con cosa? Con Maria Musina. Ti ribillare le verità e ti dici l'hai firmato l'udizzamento in favore a Eddi. Che ha so poco loro fighissi. Chi ci sono un demonio? Altro che dammi di compagnia! Ma chi? A me mi pare che faccio fatto a capare che da maniera, rilassi di buffi, rilassi! E fai prima! Tu non hai buttito, ma non l'hai buttito! Anche al televisore l'hanno detto! Oh, questa gente qua, parliamo ma! Fogli no, davvero compriamo niente, attaccamento! E ne ributtiamo giù tutta l'eredità di Rubuzzi, specialmente se sapevano che viveva solo lui e che non aveva nessuno. Mi sa che erano condannati, chi sì? Erano in due, erano. Nessuno quando vuole lasciare i frati, esci, mi riempiremo noi. E allora, mica viene gente lonfi, ami. Viene tutti i passi, avanti si alzò. Dove? È bipparito, forse non da poi la televisione. E Luca Raffinappa? Già sono qua, già non sono molto. E beh, rispondi, integrati. Cosa vuoi dire? Di la tua, no, me la metti. Ehi, già la dico, integrato, uia, crocro. Ehi, vabbè, spara la tua, cosa buona hai comprato per stasera? Spara la mia. Sei uscito fuori frequenza, non hai buco preso ruzza. Tu hai detto spara la tua. Capita, Bacchi? La ripetizione era. Era una cosa, una parlata grafica. Dunque era indecifrabile. Ma già si fa capire lo stesso. Devi pensarci un po', grazie. Luca! Calibro era! Calibro Elu! Te, anche su! Ma chi? Te la dizendi? Chi si? Dimmi un foglio delle cose, dimmi, delle fatture! Che te ne viene da? Dei pagamenti! Ehi, ehi, avete già fatto così! Dammi uno in bianco, dopo io non si può comprare. E così si ribaga niente tutti i buffi. Aspetta. E hai pagato i buffi, hai dei figli, dei pulizi. E allora, buffi piccoli e prendenti sempre. Sì, se no si attacca a Rudronco. Dammi. Ma me già sibigliani non da sibigliani, più che buffi non sibigliani. Ma io li posso dare per cambiare la settimana scorsa, posso dare. Comunque, e poi se vieni posso regalare pure un tempo del passato, una passata. Ui, ui, bisogna stare attenti a chi sta niente. Grazie, sono attento, non è vero, bisogna avere un fucile in mano sempre. E allora, state la venne gentilocchia. Chi subperiodo, ma laggiù si fa truffare niente, e poi non lo vede al televisore. Si intende truffare anziani, chi dà addirittura travestiti da carabinieri, una massa di delinquenti. Non ho visto che fa camuffare la roba, si vede i carabinieri, si dice ma per gli anni io entro. Ma lo fate chiuso, entra in giù. Uno la vede con la padrona di casa e lascia nel murichetta. Avanti, signor Tom. Signor Bacchì, cosa vuole che gli dica? Cata, stasera ero vicino a Indietti, nello giardino. E non c'è... E non c'è padrona di Iatta Rugani, Drummida. Se ne si dà, da gli è fatta un ganso. Nel giardino che c'è, dove passiamo noi? Dove fanno la festa, il giardino della Madonna. Ho capito. No, io ero in corso. In ambulatorio dal medico. Ah, dal medico ieri stasera. Noi abbiamo passato in chivi. Nel giardino ho fatto un giro e ho passato una giatta già avuto. Iniziava a capire la giatta. E poi ce la venivano i due, tanto pieno. Pieno di giatti. E avviati sotto a casa, un mare venne i giatti bianchi. Tutti bianchi sono. Vuol dire che non ne succede niente. Andiamo, bobo. Andiamo bene. Il gruppo era sciagliata. No, era bianca e nida, era. No, si dai da casa. A chi si arruia il gruppo sciagliolo di Graziano? Ah. Ma io nel giardino di fronte al campo, mi ti sto dicendo. Sì, ho capito. Ma vengono lì, quello di Graziano si sposta. Tu adesso quando apre... Quando apri si colica fuori dalla porta aspettando che qualcuno gli dia da mangiare. E tutti gli danno un pezzo di pizza, un pezzo di maranzucchi e cazzichini. Poi la sera quando si innanda in cucina e si... E cade in domani a mangiare. Andiamo. Era sotto l'albero era, a fianco all'albero, Drummida. Cata, si è andata vicino, ma si è fatta un ganso, già è fatta. Si è aprendo lo sole, si è assurienti il primo giorno di primavera, mi piglio. Graziano deve essere mancata la batteria. Deve essere pure a caricare la batteria. Luca, è andato a mitraglia? No, rientro subito che c'è una persona. 10 minuti, là. Continua pure Graziano con comodo, sto fai. Siamo qua noi in Italia sempre, capito? Allora, ritornando indietro, per la radio, la memoria, come fai a trovarla? Bisogna entrare nel menu e cercare memoria. Bisogna cercare, però in inglese non lo so cosa vuol dire memoria. Speak English. capisci, tu lo comprendi, sì o no? Mi poco di te. Compri? E poi devo trovare qualche duro. Devo trovare qualche duro che lo sappia fare. Speak English. Ma tu usa il traduttore, scrivi la parola che c'è scritta lì, vai su Google, vai su traduttore e ti traduce quello che c'è scritto. Questa è un'altra che devo imparare però, Tore, tu la sai fare? No, io viaggio, non è mio, però devo più a tradurlo che a cessarlo. Tu mando a me, te lo traduco io. La bacchisio. Ehi, già cerco il menù, devo andare in menù. In menù devi sapere la parola, cosa devi cercare, la parola, che parola devi trovare. Siccome che cambiare il canale, poi non lo so. Ma l'unica cosa è passatino. In memoria devi entrare, prima entrare nel menù e cercare memoria. Dovrebbe essere memo. E adesso ce l'ho su, domani me lo porto giù e ci frugo a vedere un po'. Ho un casino, lo metto a posto. L'unica cosa, amico, ma te ci batti io. Io vedo che non riesci a guardare, ci butto una frequenza. Se che arrivi da scena a quella frequenza, dai che già non si muovi. Non la prendi, non accetta solo la frequenza, la frequenza gliela dai. Quando fai il terzo numero, torno indietro. Sì, lo so. Però sono riuscito a... Cambiando con la manopola. No, con il tasto. Sono riuscito a farlo trovare alla frequenza che volevo io. Vabbè. Domani ci provo. Adesso non ci vado più. Domani ci provo. E vediamo un po' cosa succede. Beh, e allora chi è entrato? Oh, tutti usciti sono, grazie. E Luca non è rientrato. Nemmeno Minestrone. Ma sempre Magnini. Minestrone è qui. Minestrone, ora ti arrosto. No, qua ci sono spaghetti alla marinara e granchi. E quei granchi grandi. Ma i granchi che vendono lì a... il coso... da Alice, quelli giganti, mi. Aspetta un po', capito, Luca, quelli grandi ha comprato. Quelli grandi, ce ne sono 4 o 6 dentro quel bascone. Una bacchetta grande. Sono buoni, Vedi, conditi. Li voti, dopo li conti, aglio, prezzemolo e uso la riva. Gli spacchi, perché sono grandi. E invece di questi, un po' di vongole, o di cioccolata legata, aglio, prezzemolo, peperoncino, un po' di pasta del bianco, aglio, se mandenti. Già faccio anche quella molte volte. Li compro lì da Alice, mia Alice surgelati. E che si bigliava i vivi. E già li faccio con quelle vongole rigate, quelle vongole lisce, i gamberetti, ci sono un sacco di roba, cioè. Animali, pure gelati ci sono, torte gelate, un sacco di roba, cioè. E già si compra bene. Solo per rimane, grazie. Fresche, prima c'era quello che vedeva fresche, tanti anni fa. Fa via la vaccinella, e si pugna il giorno della strada la vendia, era piccata però. Lo sai dov'è, Tore? Dove c'è il banco di Sardegna, a Predanetta. Già lo sai, giri lì, non per andare al banco di Sardegna. Invece di girare a salire, ad andare al banco di Sardegna, giri sulla destra lì, dove c'è quello delle carrozzelle, bimbo. Lì si è spostato lì adesso. Alice! Oggi compreso, ho capito dov'è, già ho capito. Guarda che quei granchiuri, le baschette certe volte i prezzi non sono cazzo, sono qualche volta 6 euro. Ma beh, un bascone cosa ti butta cazzo? E quindi sono ben verso buoni, della tela. Ah, dici, sì, andate a mettere già, ma ne dici, non sono granchi, sono cose, so. Ma non mi metto a mettere già, ma ne. E da giù compreso a 6 zenni. E sono 5-6 euro il chilo. Ehi, sì, sono grigi, poi quando lo buoni, come i nostri, no? E poi c'è la sua volta le sta già Maria, andate a pigliare una compagna di un bel assaluto. Infatti, giù via l'arrivi. Ma me li porta su. Mi ha già compreso, sì. A poco capito. Ehi, vabbè, una cappata me la vozzo ogni fede. E la baindo. Riprendi ciò, Bacchi. Sto per cambiare, io ogni tanto vado lì. Sempre la stessa cosa, ormai mi ha dato. Cerchi di capire. E infatti. Anda, beh, anda. E vabbè. Se la riprenda, signor Bacchi. Guarda, ci sono anche quelli di tutte le taglie, anche quelli piccoli piccoli che voi va su prigiti ti rimani giù. La barata ha preso i voli, mi Bacchi, se ci vai lì, con pochi di se si porta un bel roba, e mangi bene, e poi... Mi sono dato un frigio stracciato, facevamo latte, c'erano 6 o 8 se ne sono. 2 chili di roba, ma tu dammi del zero e mi sono contenti, hai tutti i pigliatini del zero, va, che le dopo, però mi sei contenti. E infatti poi tu io mi sono contenti, mi sono contenti con tu. Già sono buone, ieri Paoletta le ha cucinate, le orate qua in forno con le patate. Beh, ah? Orate di Alghero quelle che ha cucinato ieri qua Paoletta era. E mi pare, oggi venirà un pezzo e si era lampato, un pezzo di gappo per arrimare. Ha di visto belle bianche, proprio bello profumato quando stava cucinando, l'odore del mare. Questo le porto dal coso, non è ogni giorno che viene, perché se non fai pesce buono non mi piglio, se c'è roba buona, se no, non mettono la vicina garage, e via. E mi l'avevi abbigliato pure, anche vicino a quella frutta questo, mi sono avvicinato e gli abbigliati comparato. Però in campagna c'era questo tipo che passava, tu ne asava da mangiare, o è d'ora mulieri, da botti d'ora nazzavano, con un fiorino a frigo, no? E c'aveva un sacco di clienti, poi però non si è più visto. Questo tipo abita lì vicino a casa tua, dice che abita a Santa Maria in Pisa, mi ha detto. Il padre era il pescivendolo al mercato, c'era il banco al mercato, cioè quando c'era il mercato vecchio ancora. Poi quando aveva allenato non ha più preso. Ma vai un conosciuto di noi. Ah, è mi Paletta, me lo sta dicendo, è il figlio di una che abita qua vicino, via, già lo conosco. E no, invece in campagna adesso mia figlia mi ha detto che sta passando un altro il sabato a vendere il pesce ubreco. E lo vendimi, tutto lo vendi. Sì, sì, se lo vendi, eh. Ma se in campagna e di andare a pigliarlo, se vuoi più a Ricchi non può compararlo, no. Se bisogna stare a Sassari e via. Ma se chi mi è un affare che fa dietro che c'è compareggia. Già non credo, io mi ricordo quando ero lì in campagna, specialmente in estate. Cazzo, me la vita si tenne vicino a un cancello che veniva sempre da me, compri. E lui diceva, tu vieni lo stesso il sabato, se la vuoi, qualche cosa ti la abbiglio, non ti ne abbiglio bene, qualche cosa mi dice ti la abbiglio, noi posso mangiare sempre pesce. E tu veniva tutti i sabati, quindi. E sempre qualcosa gliela compravo. E gli ho fatto molte volte anche spese grosse, specialmente se lui aveva qualche festina alla ghetta a prezzo. Glielo diceva, lui si organizzava e poi mi portava tutto il pesce che gli chiedevo, capito? È così. Ma l'altro giorno passato c'era seppie, ne aveva una pesava 4 kg. Se io ti ho pulito, se posso mettere il bicetto hai, non ci posso seco per tagliarla. E anche quelle le prendo, le, vabbè chi se la zippia a me mi piace un bel, sia frissa affusta di limone sia condita con al sughetto, buona rete col sughetto piccantino. Oh yeah! Ci sei anche mezzo bigliato di zeppi? Non hai un'idea, grazie. Poi però non ci sono più andato, non fate a più. Però già ne ho preso anche io da ragazzo. Sì, perché il latte dolce della buon'anima di signora Giuliana. E lo da zia mamma, o se no me lo vendevo. Quando ne avevo bene, privati così già. Purtroppo, non si può fare più nulla. Andate. Se la riprenda, signor Bacchi. Aspetta un topo, non ci vai a pescare, poi lo vendi il pesce, agli amici lo vendi. Non vendi il pesce se lo peschi, solo che tu sei un po' carino, arretrato, lo puoi andare. Se esistenti che lo pesce dentro la bacca. Vieni menina, che pure un bacchio, sono arrabbiato pure un bacchio, che non faccio tempo a mandarvi. Non hai tempo, sei in pensione. Non so che andrà a fare ad accompagnare nei botti, i figlioli, quanto venne. Ah, i figlioli mi sono dito arrangetevi. Purtroppo, certo. Cosa avete in vozia? Grazie, tu cosa ne pensi? Oh, gli amici botti l'aveva detto, vai in trampo. Sono minoriti, grazie, ci sono minoriti. A parte che a me figliura la tua ricapo che la minorita, ma ha fatto incazzare l'allenatore a chi? Si è ributtata a fare un momento che a paese, arrivi chi te, cosa mi ha detto? E di ritardo adesso non la posso fare giocare. Oh, allora ti dico questo, si vuoi a me figliura a giuca, vai a casa e ti rabbia, che io non ti la butto più. Vai tanta, ciao, arrivederci. Certo. Hai compreso, Bacchi, a Graziano. Hai ragione, va, è così. Una volta ti sei coiuato, tu sei. Se sei fatto la famiglia, ti devo accudire ancora dei figlioli, a te e ai figlioli, non saranno, arrangetevi. Ognuno in casa sua, a grattarsi la baletta. E allora, e come ti veniva a pigliarsira? E lì un rumacco ce la buttava a tutti i paesi, fissa la bocca, a conto gratisi. Allora, bene pigliatina si la vuoi, se non la raggi lì. Adesso veniva, e non mi so come è andato. Arrangiati. Il decisore è sempre impegnato con i nipoti, a buttarla a giocare, a buttarla all'asilo, a buttarla a... ha sempre impegni, a chi si è pigliato dietro, se invece non servivano impegni. Tu, e quando eri travagliente come ti fa lì? Se tu sei stato travagliente come ti avevi fatto? Sì, che sono l'aggio di tu io, Purtroppo, cosa volere fare? Ma non fatevi la bocca, in capo non verrà nessuno ancora, e tu ti rendi lo spogliatoio. Ma ci si non per nessuno in un campo, sono ancora già a mezzo dello spellatoio e mi sei dicendo che arrivi giù, sono che arrivi giù in ritardo. E allora da oggi poi vengo così, si lavori, bene ti rabbini, posa in macchina io e mi sono cambiato la giornata come un bucarotto. E così è la ragione, e così è graziato. Scusa, sì, in capo non per nessuno, sono ciambelli, ancora mi dici chi sono così ritardo. Ah, bravo, ti dici che non vuoi lavori fare giocare, ma non mi dici la barzelletta. Sono così, sì, grazie. Le accudite quando sono minori, dopo i fatti i figlioli, e devi accudire i figlioli, nella canzone non finì mai. E così è Tore è impegnato pochissimo. A chi siete voi? No, sono travagliente e non posso venire. Invece no. Poi, ma Tore lo fate con il coppo per fottirmi la benzina alla figliura. E poi si incacciano i dirà a chi i chivi, li soci buoni di dirà e da poi si rimpacchino. E tu l'ha pagato. A me non mi pagava nessuno, ma ricapita. Si la vuoi, bene ti la bisi. È così. Bene, signori, io vi devo lasciare, arrivata ancora per me. Grazie della chiacchierata, grazie a... Saluti in casa, saluta la signora, a domani se concide. Ciao Tore, anche per te. buona serata, saluti in casa, a domani, buonanotte a tutti, anche a quelli che sono ascoltati. Ah, ciao Luca, buonasera anche per te, mi stavo dimenticando, scusami. Bene, Bacchisio vi ascolta fino a Lino e va in QRD, riprenditore. Sì, Bacchi, ci sentiamo domani se tutto va bene. Ok, riprendi, grazie. Ok, Bacchi, già domani là, buona cena, buon tutto. Ce la risentiamo domani se Dio vuole, anche io chiudo là adesso. Ciao Tore, anche a te buonasera, buon tutto. A domani ce la risentiamo. Ciao Gio Maria, ciao Luca e chi è in ascolto. Chi c'è, c'è, chi non c'è, non c'è. Ciao! Sì, ok, ciao, grazie, ci sentiamo. A domani. Luca!